Va ora in onda Qua e là tra una novità e l'altra. Ogni domenica su CRM a cura di Pino Simplicio. Buona domenica da Pino Simplicio, quella tra una novità e l'altra. Domenica 27 febbraio 2011, 11, 18 e 25 secondi, tanti gli argomenti, tanti gli ospiti in studio che io ringrazio. Iniziamo subito con il primo argomento in scaletta, grazie al sindaco, avvocato Giuseppe Muffoletto, sindaco di Gratteri, e al vice sindaco Pino Castelli. Con loro percorreremo l'anno amministrativo del 2010 appunto per quanto riguarda il comune di Gratteri. Ricordo ai radioascoltatori che subito dopo parleremo della pietra della memoria. Dove la metto? Ci saranno, è già arrivato il vice sindaco Corsello, i consiglieri calabrese, grazie per essere già in studio, e siamo in attesa del capogruppo del PD Rosario Lapunzina. Per chiudere, ecco, no, io non lo so, caro avvocato Muffoletto, vedremo. Tra l'altro qua non solo siamo in audio ma siamo anche in video, e di questo ringrazio la regia, ringrazio anche Marco Nicolosi e ovviamente l'editore. Iniziamo subito, iniziamo con l'avvocato Muffoletto, sindaco di Gratteri. Sindaco, le rivolgo la prima domanda. Lei al secondo mandato, è stato eletto nel giugno 2008 con 495 voti, mentre il suo avversario politico Giacomo Ciringione dei voti allora ne prese 212. Le faccio subito la prima domanda. Ecco, una cosa che le riconoscono, che ha cercato subito il dialogo con l'opposizione. Mi sembra questo un aspetto molto importante quando si vuole portare avanti il bene comune. Intanto buongiorno a chi ci ascolta e grazie a CRM per avermi invitato. Ecco, forse la cosa più importante nella quale sono riuscito insieme alla mia giunta, la cosa più importante rispetto alle altre cose di cui parleremo, è l'avere contribuito a creare in Consiglio Comunale Gratteri le condizioni perché si potesse, ecco, collaborare con, non solo con il gruppo di maggioranza, ma anche con il gruppo di opposizione nell'esclusivo e superiore interesse di quella comunità. E credo che la mia amministrazione appunto ci è riuscita. Basti pensare che tantissimi argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale vengono votate alla unanimità. Da ultimo, come mi ha ricordato poc'anzi il mio attento vice sindaco, l'assestamento di bilancio proprio del 2010, ecco, è stato votato alla unanimità. Abbiamo fatto insieme delle grandi battaglie, per esempio quella dell'acqua, che ci ha visto sulla stessa linea d'onda, ecco, tanto per usare un termine radiofonico, insieme al gruppo di opposizione. Noi siamo tra quei comuni che hanno da sempre creduto che l'acqua è un bene pubblico e non va ceduto a nessuno, e quindi siamo tra quei comuni che non hanno ceduto le armi ad APS. Credo che i fatti di oggi, credo che ci danno ragione su tutta la linea in relazione a questo argomento. Sindaco, io così desideravo ribadire che sulle sue parole scorrono le immagini di quest'altro gioiellino del nostro territorio, che è appunto il comune di Gratteri. Così, col suo vice sindaco, con Pino Castelli, io gradirei che loro, anche attraverso l'attività che avete svolto a Milano, con la BIT di Milano, col vostro stand, perché per carità, senza nulla togliere agli altri stand dove c'erano altre realtà del nostro comprensorio, però Gratteri aveva il proprio stand e ha voluto parlare con i visitatori della storia, della cultura e delle tradizioni di Gratteri. Ecco, la domanda è uguale per tutti e due, per cui l'intervento va diviso tra il sindaco e il vice sindaco. Sono certo che poi appunto il vice sindaco aggiungerà qualcosa. Io tengo a precisare che la possibilità per Gratteri, ecco, di essere presente con un proprio stand alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ormai credo per la settima volta, questa possibilità si è concretizzata grazie anche ad una grande persona che si chiama Maria Pia Vesin, che è una signora appunto milanese, si occupa, ecco, dei rapporti con l'esterno alla Fiera di Milano, è responsabile del cerimoniale della Fiera, la quale una ventina di anni fa si innamorò di questo paesino, che già conosceva perché la ragazza frequentava Pianetti, la casa di Angelina Lanza, che certamente tutti voi conoscono, quantomeno sul piano, ecco, letterario. Evidentemente sul piano fisico non la conosciamo, perché è morta da tantissimo tempo e noi forse ancora non c'eravamo. Ecco, e questa ex ragazza è tornata sui luoghi, si è innamorata di Gratteri, ha comprato una casa, e devo dirvi che il contributo in termini, ecco, di pubblicità per Gratteri non si ferma solo alla BIT, cioè a dire ad aiutarci a realizzare, ecco, ogni anno questo stand, ma è un amore, è un contributo che dura tutto l'anno, perché ovunque e con chiunque, ecco, si trovi a parlare, questa signora non fa altro che parlare di Gratteri come il posto più bello della Sicilia, per quanto evidentemente la riguardi. Ecco, Pino Castelli, vice sindaco. Io invece, dopo le parole dette dal sindaco, devo dire che proprio in merito alla BIT, quindi alla nostra presenza alla BIT con questo stand personalizzato del comune di Gratteri proprio, devo dire che poi sono un tipo che poi alla fine tira un po' le somme, no? Tira un po' la linea. E devo dire che, essendo Gratteri 365 giorni l'anno, devo dire che con questo ritorno, questo sforzo che fa il comune, anche in termini economici, al di là del fatto che bisogna dare merito alla Pia Vesin della disponibilità, però devo dire che anche l'amministrazione, il sindaco, si impegna ogni anno a mettere qualche cosina nel bilancio proprio per poter essere presenti in maniera dignitosa alla BIT di Milano. Devo dire che ogni anno vi è un riscontro in termini di presenze, proprio perché vedono questa pubblicità, questo passaggio che c'è alla BIT da parte di molti visitatori, che è una vetrina internazionale, sia in termini di presenza, diciamo, turistica di elite, ma anche di molti giovani che amano la natura, amano un modo di vivere diverso, e quindi diciamo che questo è il fatto poi positivo, diciamo, di questa nostra presenza alla BIT di Milano. Per completezza sull'argomento ho il dovere però di aggiungere qualche cosa, premesso che io ho scoperto l'esistenza della borsa del turismo della BIT, la scoprì nel 1985 quando ero sindaco di Cefalù ed era vice sindaco il compianto avvocato Pino Corsello, zio di questo signore che oggi è vice sindaco, ecco, Cefalù di Roberto. E devo dire però che la presenza con un proprio stand dovrebbe arricchirsi, ed è questo un discorso che faccio sempre agli operatori gratteresi, dovrebbe arricchirsi della presenza anche delle aziende. Ecco, il comune mette a disposizione lo spazio, il comune organizza, ecco, l'evento, però per essere poi un'iniziativa completa necessita la presenza, ecco, in loco degli operatori, i quali possono tranquillamente utilizzare quello spazio, quegli arredamenti e quant'altro per vendere il loro prodotto. Oggi noi lo vendiamo sul piano dell'immagine, e quindi parliamo con la gente, distribuiamo le brochure, distribuiamo i biscotti ottimi, eccellenti, che si fanno a Gratteri. Ecco, però una presenza, ecco, una partecipazione attiva delle aziende, a mio avviso, completerebbe questo iter, questo lavoro. Ecco, signor sindaco, anche per quanto riguarda il fare turismo è troppo semplice, dire che si va a Gratteri soltanto nei periodi estivi. Io così, chiedendo qua e là, cerco di documentarmi sempre sulle manifestazioni che vengono spalmate durante l'arco dell'anno. E dobbiamo dire che Gratteri per me manifestazione significa anche intitolare un centro sociale ad una figura come Piersanti Mattarella, oppure una strada ad una figura che ha perso la vita per rendere liberi i siciliani. Ecco, voi vi organizzate in modo tale di assicurare con date ben precise determinate manifestazioni che fanno parte della tradizione e della proprio cultura gratterese. Quindi se proprio vogliamo parlare di questi eventi, di queste attività culturali che sono stato e di quello che si ha in cantiere per i prossimi mesi. Intendo precisare subito che anche questo tipo di iniziative, che potrebbero tranquillamente portare il timbro dell'amministrazione attiva e basta, no? La competenza si appartiene alla giunta e al sindaco, ma anche queste iniziative ho ritenuto doveroso portassero la condivisione da parte del Consiglio Comunale in entrambe le composizioni, le componenti meglio, cioè dire maggioranza e opposizione. Questo lavoro, mi piace tornarci, ecco, questo lavoro di ricerca della condivisione è un lavoro che mi sono intestato insieme ai miei collaboratori di giunta fin dalle prime battute di questa mia esperienza, nuova esperienza di sindaco a Gratteri, e credo di esserci riuscito. E quindi quando si va a chiedere cosa ne pensi il Consiglio di intitolare a Piersanti Mattarella, alla memoria di Piersanti Mattarella, un edificio, che nel caso in specie un edificio che con delle somme che ci ha fatto avere il CIPE siamo riusciti a restaurare, a ristrutturare la sede dell'ex scuola media. Ecco, quando si va in consiglio e si chiede la condivisione sul punto, non può che partorire, ecco, un fatto comune che poi vede presente quella sera della inaugurazione, quando abbiamo fatto la conferenza sulla figura di Piersanti Mattarella, ecco, si vede la presenza del capogruppo dell'opposizione che, al pari del sindaco e degli altri oratori, si sono fermati a parlare di questa insigne figura, diciamo, di Piersanti, appunto, ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. E lo stesso discorso vale per Falcone e Borsellino, abbiamo intitolato un viale a questi due magistrati, lo stesso discorso vale per Francesco Bonafede, figura della quale certamente ormai avete sentito parlare, che ci vede molto, ecco, vicini alla città di Cefalù, perché voglio ricordarlo, soprattutto quest'anno che cade il 150esimo anniversario della Unità d'Italia, Francesco Bonafede fu insieme a Salvatore Spinuzza, ecco, partecipò ai moti del 1856 a Cefalù, dove poi purtroppo Spinuzza fece la fine che fece, fu martire, ecco, per questa sua azione. Ma ancora Francesco Bonafede, che, diciamo, a cui toccarono alcuni anni di prigione, lo ritroviamo poi ancora nel 1860 a Palermo. 1867, chiedo scuse, lo ritroviamo appunto a Palermo come anima di quella rivoluzione, tant'è che si guadagnò l'appellativo di viceré di Sicilia, che fu il viceré per 7 giorni, tanti quanti durarono la rivoluzione. Ecco, vice sindaco, anche in termini di miglioramento strutturale, di iniziative che sono in cantiere, tra l'altro una l'abbiamo seguita anche noi, perché si è lavorati da partner come Comune di Lascari e come scuola. Ci sono delle iniziative in cantiere e si è in attesa dei finanziamenti per poter rendere sempre più funzionale quelle strutture che poi appartengono alla comunità. Come no, ce ne sono, poi il sindaco sarà molto più preciso di me. Comunque io posso benissimo elencare quelle che sono le iniziative già cantierabili in itinere, a incominciare da due cantieri scuola che a breve già prenderanno subito riprenderanno i lavori. Poi ci sono la casa di riposo che è inserita nel PIST Madonie, città rete Madonie Termini Imerese, con i fondi del 2007-2013. E in più l'impianto di illuminazione a LED sempre inserito nel PIST Madonie. Ma oltre a queste due grosse iniziative di cui l'amministrazione comunale, di cui l'avvocato Muffoletto proprio nel suo programma elettorale proprio ha puntato proprio in maniera decisa, perché realizzare e completare la casa di riposo, scusate se io mi soffermo un po' su questo, questa struttura, significa per Gratteri creare occupazione. Devo dire che con una intuizione da parte dell'avvocato Muffoletto, da parte in certo qual modo anche mia, scusate se lo dico, proprio il fatto di aver inserito nel PIST questo progetto della casa di riposo con l'integrazione che andavamo a creare ben circa una ventina di posti di lavoro, questo ci ha consentito di risalire un po' la graduatoria e quindi essere ai primi posti nel programma PIST Madonie, oltre ad avere già un progetto esecutivo con tutti i pareri, questo è importante ribadirlo. Oltre questi due progetti abbiamo già in cantiere, già abbiamo presentato nei vari dipartimenti, nei vari ministeri, oltre alla regione siciliana, l'efficientamento energetico della casa, della casa comunale, un progetto che riguarda il risanamento di una contrada, che è contrada Cuba, che abbiamo già il progetto pronto e sarà subito inserito nel primo bando disponibile da parte del fondo, nella terza finestra del sviluppo sostenibile del PIST, e poi abbiamo anche il progetto che riguarda la scuola elementare e medie di 180.000 euro che già siamo in graduatoria, abbiamo già avuto notizie che siamo inseriti in graduatoria. Questo diciamo sono i grossi. Io se posso solo aggiungere una cosa e poi passo la parola al sindaco. Devo dire che l'ho sempre detto anche in conferenze che riguardano il turismo o meno, Gratteri, il mio paese, la mia città, credo che ormai non ha bisogno di grandi opere. Noi dobbiamo risanare quelle che sono e migliorare quelle che sono i borghi, le borgate, rendere un paese fruibile e sostenibile integrato con quello che è la nostra realtà di piccolo centro madonita. Grosse opere, io sono, lo ribadisco, lo ribadirò sempre, qualcuno potrà dire ma sono contrario alle mega strutture che non hanno niente a che vedere con il mio piccolo centro. Ecco sindaco, città. Io per riallacciarmi, perché era un altro punto che desideravo proprio su cui lei rispondesse, riguarda appunto il centro storico. Si fa tutta questa pubblicità ad acquistare a Gratteri da persone che vengono da fuori, però forse la sua linea di pensiero è un pochino diversa. Lei invece invita i gratteresi a tenersi il patrimonio loro, ossia proprio come patrimonio che appartiene e come struttura che rappresenta la storia del comune e di Gratteri, come a dire Gratteri ai gratteresi. Il discorso è un po', per la verità è un po' diverso. Io qualche anno addietro feci una lettera aperta ai cittadini di Gratteri con la quale ho esposto succintamente il mio pensiero in ordine a questo fenomeno, ecco, della vendita delle case. E in che senso? Cioè a dire, purtroppo spesso volentieri le somme ricavate dalla vendita delle case vengono depositate all'ufficio postale, ecco, e tutto finisce là. E questo secondo me era ed è un grave errore. Quelle somme vanno a mio avviso reinvestite nell'abitato, anche perché è frequente il caso che il cittadino gratterese sia proprietario non di una casa, ma di più casette. E quindi se ne vendo una, debbo utilizzare, secondo me, ecco, sarebbe auspicabile che il denaro, il ricavato venisse utilizzato per restaurare l'altra e mettere quest'altra nel mercato delle locazioni stagionali, in modo tale da avere il cosiddetto albergo diffuso, ecco, se posso utilizzare questa espressione che oggi va di moda. In questo senso, quindi, era il mio pensiero attraverso quella lettera che ho rivolto ai cittadini. Che effetto ha avuto quella lettera? Intanto sono aumentati i prezzi, quantomeno, ecco, c'è stato questo risultato, perché prima vendevano a pochissime migliaia di euro, ecco, di seguito a quella lettera, voi perché i tempi erano maturi, ci sarà stata una coincidenza, fatto sì è che, ecco, oggi per comprare una casa, non è che ci vogliono chissà quali somme, però non c'è dubbio che i prezzi sono lievitati. E devo dire che ha cominciato ad incunearsi nella mente della gente questa strada, questa via, questo suggerimento di mettere a disposizione le proprie unità immobiliari in quel mercato, tant'è che attraverso anche un'associazione culturale di recente formazione, qual è la Simbiosi, ecco, so che operano anche in questo settore, appunto, degli affitti stagionali. Secondo me va incrementato questo tipo di scelta e di iniziativa. Devo dare atto pure, però, a chi ha comprato, devo dare atto del fatto che hanno posto in essere degli interventi di restauro assolutamente dignitosi sul piano, ecco, del rispetto dell'ambiente e sul piano proprio architettonico. Oggi posso dire che il centro storico è per buona parte restaurato in maniera elegante, tant'è che tantissimi ospiti che durante l'anno ho il privilegio e il piacere, ecco, di avere a Gratteri, quando vanno via non si complimentano con me per quello che hanno trovato in termini di restauro, di ristrutturazione all'interno del centro storico. Il tutto calato, consentimi Pino, in una realtà che è quella della pulizia dell'abitato, credo di poter affermare, e qua poi viene un po', ecco, questo mio carattere a volte, no? Io posso affermare che Gratteri è uno dei paesini, credo, il più pulito di Sicilia, senza che nessuno mi cominci a dire, ecco, un solito, lo posso dire, perché ho 3-4 operatori che fanno il loro dovere, ma accanto agli operatori poi c'è, ecco, questo senso, questa cultura della pulizia, la cultura civica, ecco, della pulizia dei gratteresi, i quali da sempre, l'ho detto tante altre volte, sono abituati a pulirsi davanti casa, e continua ancora questo modo di fare, che a Cefalù esisteva quando io ero ragazzino, perché non dimentichiamo che io sono cefaludese da 18 generazioni, che esisteva, poi purtroppo con i tempi si è perduta questa bellissima abitudine. Ecco, signor Sindaco, siccome noi tra l'altro ci avviamo anche alla conclusione, perché abbiamo fatto un quadro completo sulla situazione, però le chiedo, quale aspetto ancora non è riuscito a curare completamente, e se ancora ha qualche resistenza, e se resistenza c'è, in quale direzione? Dunque, io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Io mi porto fino ad oggi un grande rammarico, quello di non essere riuscito a far eseguire, a trovare quindi i finanziamenti necessari per il restauro di uno dei gioielli architettonici e al contempo, appunto, storici che esiste secondo me in Sicilia, che è l'abbazia di San Giorgio. E io voglio ricordare che quell'abbazia si apparteneva ad un privato. Nella mia prima consiliatura, 1989-1993, riuscii con quella mia amministrazione ad acquisire il patrimonio del comune. Poi io finì di fare il sindaco per 10 anni, quel comune ebbe come sindaco Angelo Aliquò, poi sono tornato nel 2003 a fare il sindaco, venne conferito incarico al compianto professore architetto Pasquale Colotta per la redazione di un progetto di restauro. Il progetto venne ultimato, purtroppo nel senso che perdemmo Pasquale Colotta, venne ultimato dalla altrettanto brava figliuola architetto Tania Culotta. Ritenni che per poter accedere più in fretta ai finanziamenti, ritenni di affidare questo bene all'ente parco delle Madonie, cosa che abbiamo fatto e della quale siamo appunto convinti, ecco, nel senso della direzione positiva della scelta. Purtroppo ancora ad oggi questo bene non ha i fondi per essere restaurato. Io mi auguro che ciò avvenga prima che io finisca questa mia esperienza, che ricordo finirà nel 2013, con tranquillità di tutti, nel senso che me ne vado in pensione. Se qualche birbante vice sindaco, quello di Cefalù in particolare, pensava ad altro, voglio dire, stia tranquillo che ecco. E quindi questa cosa. Poi voglio dire, purtroppo, come gli amministratori di Cefalù presenti possono certamente confermare, da alcuni anni a questa parte la partecipazione ai bandi per il reperimento di somme, no? Per opere pubbliche di qualsiasi specie e natura, porta con sé il cofinanziamento, cioè a dire l'ente richiedente deve mettere una parte. Vi rendete conto che un bilancio come quello di Gratteri, un comune di 1000 anime, non consente scialacqui di nessuna natura. Anche la capacità di indebitamento di un comune come Gratteri è assai modesta, per cui ho fatto una scelta condivisa dalla giunta, quella di destinare la nostra capacità di indebitamento alla realizzazione, quindi al finanziamento per la realizzazione della grande opera sulla quale noi tutti fidiamo, che è appunto la Casa del Riposo, che certamente darà lavoro a tanti giovani, perché immaginate 44 posti per anziani che hanno necessità appunto di un ricovero comporterà, ecco, il lavoro per tantissimi giovani in varie specializzazioni nel settore. Quindi abbiamo riservato a quest'opera la nostra capacità di indebitamento. Ecco, parlato così come si dovrebbe della scuola. Questa amministrazione è un fiore all'occhiello. Io ho nei confronti della scuola da sempre abbiamo avuto un occhio particolare, se così mi è consentito dire, perché riteniamo che soprattutto in una realtà talmente piccola quale è quella di Gratteri, ecco, le scommesse si fanno sulle nuove, sulle future generazioni, e quindi su questi ragazzi che vanno crescendo. Quindi un occhio particolare che si è estrinsecato anche nel creare le condizioni per uscire fuori da un ambiente che, con tutti gli sforzi che possono fare gli insegnanti, e li fanno certamente, è sempre un ambiente assai angusto, no? Sul piano anche, voglio dire, delle esperienze, degli scambi di esperienze. E quindi abbiamo molto, e continueremo in questo senso, facendo sì che questi bambini conoscano nuove realtà. Mi piace ricordare quel viaggio organizzato l'anno scorso, li abbiamo portati in provincia di Latina, dove c'è un museo, il Museo delle Orme, no? Dove c'è tutta la storia della bonifica di quella pianura, opera realizzata dal fascismo, nel senso che fu il fascismo a decidere, ma opera realizzata dal sacrificio di tantissimi italiani che lavorarono buttando il sangue, e tanti vi morirono durante quegli interventi. Ecco, questa fu un'esperienza, credo, bellissima, Torniamo anche quest'anno sempre in favore del mondo della scuola, li porteremo nel prossimo mese a vedere il museo del treno, che ho appreso, io non lo sapevo che esistesse, a due passi qua a Villarosa c'è un, ecco, quindi cogliamo ogni occasione perché il mondo della scuola abbia questo continuo rapporto con il mondo esterno, questa osmosi. Coinvolgere i ragazzi per il 150esimo dell'Unità d'Italia è il minimo che si possa fare, tant'è che l'amministrazione avrà a pronti 8 premi, uno per ciascuna classe, dalla prima elementare alla terza media, e i ragazzi faranno un tema sul Risorgimento e poi saranno premiati appunto secondo le indicazioni che riceveremo dal corpo insegnante, che andrà a correggere, a valutare i temi. Sono piccole cose, me ne rendo conto, ma sono cose che... Era proprio l'ultimo punto su cui desideravo soffermarmi, lei mi ha preceduto, per ricordare un particolare, perché tra l'altro lei non si è fermato soltanto alla realtà e alla scuola di Gratteri, ma come sempre ha visto oltre, e in una manifestazione, il primo trofeo Legalità, lei ha voluto coinvolgere tutte le scuole del comprensorio. Io ancora una volta la ringrazio, lo faccio a microfono aperto, perché un giorno lei ci ha onorato della sua presenza alla Campo Felice di Rocella con un suo collaboratore e con una locandina che noi teniamo ancora cara, che pubblicizzava quell'evento del primo trofeo Legalità. Sono situazioni che possono sembrare di secondaria importanza. La comunità scolastica ha gradito non solo la sua presenza, ma anche il suo interessamento. L'iniziativa poi è stata qualcosa di eccezionale. Ovviamente la scuola che ho l'onore di rappresentare era al Palasport di via Aldo Moro a seguire tutta la manifestazione. C'è anche un impegno da parte nostra, che tutte le volte che riceveremo un invito da parte della scuola e del comune di Gratteri, anche se dovessimo venire a piedi per una bella passeggiata ecologica dall'Asca di Gratteri, noi saremo presenti. Io desideravo ricordare, caro sindaco, e chiudere e ringraziare lei e il vice sindaco per questa vostra presenza. Prego. Per chiudere, questa iniziativa Sport e Legalità, che ha visto appunto questo incontro di basket a Cefalù, perché a Cefalù? Perché io a Gratteri non ho strutture, ecco, dove in inverno si possa realizzare un'iniziativa di questa natura. In estate ce le abbiamo all'aperto, si può giocare al campo sportivo, possiamo fare questo e altro. Questa iniziativa probabilmente ha visto una mia gaffe. Io sono pronto sempre a riconoscere gli errori o le dimenticanze. Non venne coinvolto in quel caso il comune di Cefalù. Attenzione, non è che ne avessi avuto l'obbligo, stavo utilizzando una struttura sostanzialmente privata, ma forse, ecco, sul piano geografico, no? Per non disturbare altri argomenti, però ecco, quella manifestazione ha avuto un grandissimo successo e ho scritto circa 20 giorni fa una lettera al caro sindaco di Cefalù, il dottore Guercio, perché insieme al comune di Gratteri si possa organizzare un'altra iniziativa sempre rivolta al mondo della scuola e che riguarda lo sport e che riguarda appunto alimentazione, uso di sostanze più o meno lecite, ecco, da parte di taluni sportivi, chiamiamoli sportivi, che poi sportivi chi usa queste sostanze tanto sportivo non è, e sono certo che il comune di Cefalù ecco, accoglierà questo mio invito, che credo averlo mandato circa una ventina di giorni fa, ma appunto il vice sindaco mi sta dicendo che stanno rispondendo, e quindi insieme al Comune di Cefalù organizzeremo questo nuovo evento rivolto al mondo della scuola. Grazie ancora professore. Io ringrazio il sindaco avvocato Giuseppe Muffoletto di Gratteri, il vice sindaco Pino Castelle. Salutando te e il sindaco, desidero salutare tutti coloro i quali vi sono accanto, i colleghi assessori, ma tutti coloro i quali credono nel progetto che state portando avanti, perché quando ci si crede, io penso che si può solamente discutere, ma poi i problemi vanno avanti e si risolvono. Grazie sindaco, grazie vice sindaco. Linea alla regia e subito dopo la pietra della memoria. Dove la metto? Con in studio il vice sindaco Corsello e i consiglieri Calabrese e La Punzina. Ricordo che chiuderò la trasmissione con la pallavolo, il punto sul campionato del Costa Verde Cefalù con il presidente Salvo Di Giorgio. Linea alla regia, grazie.